No, Burgio ci sarà, spero, fisicamente e anche politicamente, intendo dire la prossima. No, cioè, io credo che se qualcuno non afferma questa storia, possiamo andare avanti, suppongo, per giornate, no, però Cristian, se vuole, bisogna fare una... Oltretutto io devo chiedere formalmente scusa a Gomma e la Shea, perché loro erano iscritti a parlare e sono stati in qualche modo tagliati fuori, però ha preso un ritmo di un certo tipo. Vabbè, allora io penso, Cristian, se vuoi. Ma io sarò veramente brevissimo, anche perché sono affamato. Anche perché non ti dà più nessuno da mangiare, se non te lo diamo noi. A proposito di questo invito questa esortazione alla difesa o alla lotta per i diritti universali, per i diritti sociali, il riferimento che è stato fatto allo Stato sociale mi sembra che sia problematico, perché oggi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'analisi che sto facendo delle trasformazioni dello Stato sociale in Europa, in Francia, in Germania, in Svizzera, e conosco meno quanto sta accadendo in Italia. A questo proposito, mi sembra che proprio è la categoria dei diritti sociali nella loro universalità che sia che sta per essere completamente messa in crisi. Se c'è qualcosa che mi sembra emergere dallo Stato sociale in trasformazione, precisamente il fatto che vengono meno due pilastri di quello che è stato lo Stato sociale nel periodo fordista, precisamente l'universalità dei diritti e l'automaticità di questi. L'universalità nel senso che sempre di più si tende a enucleare, a mirare su una fetta di popolazione, la cosiddetta popolazione degli esclusi, di quelli che non hanno più accesso al mercato del lavoro, di quelli che sono in un qualche modo emarginati da questa trasformazione postfordista. E in questo senso si toglie il carattere universale ai diritti sociali per così ridefinirli in termini di solidarietà mirata su questa fetta di popolazione. Quindi si cerca di trasformare lo Stato sociale ricostituendo la separazione fra il concetto e la pratica della solidarietà e la logica dell'economia di mercato. Anche dal punto di vista del sistema assicurativo si va precisamente in questa direzione. E se poi noi guardiamo a quello che è il tratto fondamentale di questa trasformazione dei diritti sociali dalla loro universalità alla loro parzialità, ci rendiamo conto che, per esempio, non so, in Francia il dispositivo del reddito minimo di reinserimento è non solo una dimostrazione di questa parzialità, di questa trasformazione in particolarismo dei diritti sociali, ma addirittura i diritti sociali sono definiti alla carte, partendo dalle persone con nome e cognome, sulla base di rapporti fra Stato e utenti, fra chi fa la domanda per un aiuto e chi la eroga, e chi eroga aiuti sotto forma di finanziario o di programmi di riqualificazione, eccetera. Quindi il problema della lotta all'esclusione passa oggi sempre di più attraverso uno Stato sociale che definisce il diritto sulla base di un trattamento individualizzato e non più a partire da un diritto nella sua connotazione universale. Quindi cade anche in questo senso l'automatismo della garanzia dei diritti, che nel fordismo era organizzato sulla base della ridistribuzione dei redditi o attraverso il meccanismo fiscale o attraverso l'erogazione dei redditi di complemento. o di sostituzione. Quindi noi veramente siamo già in una fase nella quale la trasformazione concreta, reale dello Stato sociale pone seriamente in crisi questa natura universale dei diritti sociali, e sempre più abbiamo a che fare proprio con questo problema di come rilanciare, ecco, per ritornare al tema precedente, come rilanciare un fronte, o come costruire un fronte che difenda o che rilanci appunto una lotta per i diritti sociali in questa forma, come dire, trascendentale, sovraindividuale. Io penso che, di nuovo, bisogna stare attenti a non seguire da vicino queste trasformazioni, perché queste sono già in atto, indipendentemente dalle cose che noi stiamo qui a dibattere. Cioè, lo Stato sociale ha già stravolto la definizione stessa di categorie, o la possibilità stessa di usare categorie come diritto universale, diritto nella sua diritto sociale in questo senso. Noi dobbiamo fare i conti con questa realtà che è estremamente cambiata rispetto alle categorie politiche di cui facciamo uso e che oggi sono emerse qua e là nei nostri interventi. A me sembra che ci sia francamente un ritardo da parte della sinistra nell'analisi, nella comprensione di questi processi. Noi possiamo star qui a tirar fuori tutte le nostre differenze, le nostre identità, i nostri percorsi, ma comunque il capitale va in avanti imperterrito, e quando noi vogliamo magari incidere ci rendiamo subito conto che le categorie politiche che abbiamo a disposizione sono ampiamente, abbondantemente insufficienti per afferrare per graffiare quanto ci sta di fronte. E questo non vuol dire fare l'apologia del capitale o fare un discorso. No, io credo che veramente ci sia uno sforzo che bisogna fare molto prima del rivendicare appartenenze o identità, eccetera. Uno sforzo che bisogna fare veramente nella sinistra per analizzare seriamente, in modo disincantato e senza troppa ideologia, quanto sta capitando. Perché quanto sta capitando ha messo già seriamente in crisi le categorie di cui spesso noi facciamo uso.